Ciao a tutti. State bene? Ah, bello. Mi piace in una chiesa dove la gente parla, diciamo. Io sono nato a Taranto. E ora sono pastore di una chiesa a Vienna, in Austria. E molto spesso dico alla mia chiesa, io ho bisogno di atmosfera italiana, perché gli austriaci sono... come si dice, più calmi, no? Più non fanno tanto rumore, diciamo. Meno male che abbiamo così tanti bambini noi nella chiesa, perché fanno un sacco di rumore, no? E quindi mi sento a mio agio. Comunque, già dall'inizio, è vero che sono di Taranto e sono cresciuto con l'italiano. Mia madre è francese, mia moglie è inglese, i miei figli sono nati in Austria. E che più? Siamo proprio un miscuglio. Quindi a volte quando dico delle parole che non capite, non fa niente. Perché so inglese o tedesco o qualche altra cosa. Quindi normalmente mia sorella mi aiuta quando predico in vari posti in Italia, si siede in prima fila e mi suggerisce le parole che voglio dire, no? E quindi, ma lei non è qui oggi, quindi dovete avere l'interpretazione delle lingue, come dice la Bibbia. Ok, io sono Gianni, vengo da Taranto, come dicevo, mia moglie è inglese, si chiama Angela, siamo sposati da quasi 30 anni, a novembre siamo 30 anni sposati, abbiamo tre figli, Esther che è 26 anni, peccato che non ho portato una foto, 26 anni e si sposa proprio alla fine di luglio, con un ragazzo che viene dall'Iran, quindi siamo più internazionali ancora. Poi Mattias, mio figlio, ha 24 anni, abita a Monaco di Baviera, si dice, vero? Sì, lui lavora al Vogue, alla rivista della moda che leggono la maggior parte delle donne, no? E poi mio figlio Thomas abita ancora a casa con noi, sta facendo la maturità, si chiama in italiano, vero? Proprio domani e dopodomani. Tra l'altro lui fa il modello, si dice model, fa modeling, quindi non ho una famiglia normale, no? Io dico questo perché, sapete, anni fa dicevo, ma signore, la Chiesa deve entrare in tutte le sfere della società, nella politica, nell'educazione, nell'entertainment, nella moda, nel fashion. E poi mio figlio una volta mi ha detto, papà, voglio diventare un model. E io ho detto, vai via da me, Satana! E quando uno dice, signore, manda la gente nel mondo del fashion, ma manda gli altri, non i miei figli, no? Quindi, no, quando io sono nato, ero poche ore in vita, mio padre mi ha preso e mi ha detto a Dio, te lo do a te, no? E quindi Dio ha detto, sì, me lo prendo. Quindi dobbiamo stare attenti a quello che diciamo. Quindi se preghi, Signore, fai questo, quest'altro sarà che il Signore manda a te o qualcuno della tua famiglia. E quindi, come i miei genitori ci hanno sempre incoraggiati a dire sì al Signore. E quindi mia sorella ora abita a Napoli, sta fondando una chiesa, Sabaoth, là a Napoli, e io sono in Austria. Quindi non siamo vicini ai miei genitori, ma comunque è la loro preghiera che il Signore ha esaudito, quindi... Non è colpa nostra, ma è molto potente se facciamo questo, se rischiamo di pregare delle preghiere grandi. E dov'è Jonathan? Vieni. Sì, tu suona qualcosa. Io ammiro il coraggio del vostro pastore Mirko, perché anche se non mi conosci mi fa parlare. avete un pastore molto coraggioso, eh? E quindi... oggi sono un po' profetico, significa che non so che sto dicendo. No, sto scherzando. E quindi aiuto un po' di musica nel background. Aspetto che arriva Jonathan. Ci sei? Ok. Sono qualcosa di bello. Ok, che stavo dicendo? Prima di quello che stavo dicendo? Sei coraggioso, sì. No, ho cominciato scherzando, ma veramente il Signore dice che sei coraggioso ma hai bisogno di tutto il coraggio che puoi ricevere per il futuro, anche come chiesa. Questa chiesa non è disconnessa con il pastore di questa chiesa, è molto connessa, non perché lui è il vostro pastore, ma anche perché quello che il Signore farà con lui è unito a quello che farà con voi. Lui non farà qualcosa con lui a parte voi, ma lo farà insieme a voi. Il Signore comincerà a provare delle cose con voi, a fare delle prove. E non ci sono molte chiese che lasciano che Dio faccia delle prove con loro, perché ci sono molte chiese che vogliono avere tutte le cose ben pianeggiate, si dice, pianeggiate, e non troppa sporcizia si dice, non troppa. E quando Dio comincia a provare delle cose con gli uomini, con le donne, con gli esseri umani, non è perché Dio non sa cosa sta facendo, ma è perché noi non sappiamo come reagire. Perché molto spesso quando Dio fa delle cose che sono nuove, non siamo mai stati in queste vie prima, quindi facciamo molti errori. E ci sono molte chiese che non sono disposte a fare errori. Ci sono molte chiese che vogliono play safe, vogliono avere una cosa sicura. Non vogliono avere cose che provano e non funzionano, poi chiudono, provano un'altra cosa, vogliono fare le cose che funzionano soltanto. Ma Dio vorrebbe fare con voi delle cose che non può permettersi con altra gente, con altre chiese. Non perché non sono credenti, eccetera. No, perché ogni chiesa è diversa. Ma ci sono delle chiese che si mettono a disposizione e dicono: Signore, prova con noi. Prova con noi. E sentite, questa non è una parola profetica per il vostro pastore soltanto, è per voi come chiesa. Che se voi dite a Dio: Dio, prova con me, come Maria, la madre di Gesù, che quando l'angelo venne disse: tu avrai un bambino, e lui dice: ma vabbè, non sono sposato, non so se questo fa la differenza. E l'angelo dice: non fa niente, perché questo bambino viene da Dio. Quindi Dio poteva usare Maria per fare una cosa del genere, e perciò usò lei. E ci sono delle chiese che hanno lo spirito di Maria, quando Dio viene e dice: voglio fare questo e questo e questo con voi, e loro non dicono: sì, ma non va, non funziona, perché il passato, prima, questo e questo. Dicono: sia fatto con me quello che tu dici. E il Signore veramente sta cercando delle chiese anche in Italia, specialmente qui, in questa parte dell'Italia, che si prestano a Dio affinché Lui possa fare delle cose che non ha mai fatto prima. Sapete, Dio non cambia mai, ma si muove sempre. Scrivelo questo. Dio non cambia mai, ma si muove sempre. C'è gente che pensa che se Dio non cambia significa che farà sempre le stesse cose, che è allo stesso posto, ma Dio non cambia mai, ma si muove sempre. E quindi lui vorrebbe muoversi con la sua chiesa. Proprio mentre stavamo adorando il Signore, ho dovuto cercare questo verso della Bibbia che voglio leggere. E dice questo: mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno e svolge il suo servizio e a offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Sapete cosa fa? Aspetta. Aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Sapete che questo verso della Bibbia è stato ripetuto molto spesso nel Nuovo Testamento? Ci sono delle teologie oggigiorno nelle quali noi crediamo molto fermamente, che sono meno rappresentate nel Nuovo Testamento di questa. La Bibbia dice: Dio, Gesù, aspetta. E sta aspettando che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. A chi sta aspettando? Aspettando che le chiese dicono: Dio, fallo con noi. Ci sono molti cristiani che dicono: stiamo aspettando che Dio fa qualche cosa. No, ti sbagli. Lui sta aspettando a te. Lo dice più di una volta nella Bibbia. Lui aspetta. È in cielo, seduto sul trono, e aspetta che la sua chiesa faccia il suo lavoro. E sapete, la Bibbia dice che Dio, Gesù, sta costruendo la sua chiesa, le porte dell'inferno non potranno mai sconfiggerla, Ma quello che può, noi non possiamo essere sconfitti, ma possiamo essere fatti, resi, come? Inefficaci, come lo sapevo? Rimani là, non ti muovo. Inefficaci. In che modo, quando noi non ci muoviamo, come Dio vuole che ci muoviamo, quando noi rimaniamo nelle nostre tradizioni e pensiamo a quello che era nel passato, allora diventiamo inefficaci. E possiamo essere, diciamo, fermati, frenati, no? E quindi Dio sta cercando una chiesa che si mette a disposizione, uomini e donne, che non dicono soltanto sì, il pastore e un paio di persone che lavorano con lui sono quelli che sono radicali, che provano, fanno questo e quest'altro, ma tutta una chiesa che dice: Dio, fai con noi quello che vuoi tu, prova con noi, usa, fai quello che vuoi. E se a volte facciamo delle cose che non funzionano, abbiamo delle belle idee che non, erano soltanto una buona idea, ma non un'idea, come si dice, micidiale, non fa niente. Ci alziamo e proviamo un'altra cosa. Sapete, nella Bibbia c'è quella storia di Jonathan e il suo, quel giovane che portava la sua, lo scudiere, grazie, lo scudiere. Io sto andando nelle acque pericolose, perché non ho nemmeno gli appunti per quello che sto dicendo, quindi dovete aiutarmi qua. Lo scudiero. Allora, Israele era in quel momento in molto grande pericolo. Non avevano più spade, niente. I filistei erano molto potenti. E quindi una volta il figlio di Saul disse al suo scudiero, disse: ma guarda, io ho un'idea, non possiamo rimanere come siamo, no? E la situazione non può peggiorare, quindi proviamo qualcosa. Sapete, quando uno è in una situazione dove la situazione non può diventare peggiore, uno può provare molte cose, no? non può diventare peggiore, quindi proviamo qualcosa. E lo scudiero dice: ma che hai, un'idea? E lui dice: sì, ho un'idea, facciamo così. Vedi, là sopra, sulla collina, sono tutti i filistei, l'esercito. Io ho un'idea. Allora, noi ci facciamo vedere dai filistei, e se loro, quando ci vedono, dicono: venite da noi, questo è un segno che Dio ce li ha dati nelle nostre mani. Che piano, oh. Pazzo. E lo scudiero è ancora più pazzo, dice: sì, fai tutto quello che è nel cuore, io sono con te, con tutta l'anima, con tutto il tuo cuore, andiamo, facciamolo. Quindi questo è un esempio di una chiesa che lavora insieme al leader, che non dicono: ma no, ma che, questo è un piano cretino, ma che stai dicendo, no, non si può fare questo, mica è un segno. Se loro dicono: vieni qua, mica è un segno, è come una cosa, tu ti svegli la mattina, se il sole sorge, è un segno che Dio mi ama. Il sole sorge sempre, non è un segno, no? Non è una cosa speciale. Eppure lo fecero, e Dio ha premiato questo atto di Jonathan, che sembrava essere una pazzia, ma non era, perché Dio premia la fede. Molto spesso Dio non vede alle cose se noi le facciamo le cose tutta alla maniera perfetta. Dio si muove quando lui vede che uomini e donne rischiano qualcosa. E quando Dio ha visto in cielo che Jonathan e lo suo scudiere avevano questo piano pazzesco, ha detto a Gabriele e a tutti gli angeli: non possiamo lasciarli soli, dobbiamo andare là e aiutare quei ragazzi. E Dio vuole fare la stessa cosa con voi, e vuole che rischiate. Per quello che Dio potrebbe fare con voi, avete bisogno per questa cosa di molto coraggio, ma sarà un'avventura, ve lo dico, un'avventura. E i bambini, i bambini e i giovani di questa chiesa non lasceranno mai le vie del Signore. Sapete perché? Non soltanto perché Dio è così buono, no, no, perché c'è un'avventura qui nella chiesa. E diranno: non c'è meglio di questo che sta succedendo qui. Poi ho visto mentre adoravamo il Signore, ho visto, come si chiama il tuo papà? Signor? Pastore Pino? Il Signor? E laggiù, sì, guarda. Ho visto tuo papà che era davanti a un muro, ma questo muro non era tanto alto, ma era abbastanza alto che lui non poteva vedere al di là. E poi sei venuto tu e lui ti ha preso sulle tue spalle e tu potevi vedere al di là del muro. E il Signore dice che quello che ha fatto tuo papà e i tuoi genitori, nella tua vita e in questa chiesa, ti danno la possibilità di vedere al di là quello che lui sempre voleva vedere. E quello che vedrai tu è come funziona il mondo. Dio ti mostrerà come pensa il mondo, ti mostrerà come pensa un cosiddetto peccatore, una persona che non segue Dio, una persona mondana, una persona immorale si dice, una persona corrotta, come pensano loro. Lui ti mostrerà come pensano loro e poi tu avrai l'abilità, non solo tu ma la Chiesa, avrete l'abilità di raggiungere questa gente. Dio vi aiuterà a pensare come pensano i peccatori, ma sapete cosa voglio dire? Vi dà questo dono di sapere che c'è là dentro, che c'è qua dentro, cosa pensano loro, come era Gesù. E quello che vedrete al di là del muretto, che non potevate vedere prima come chiesa anche, vedrete il mondo. Dio vi mostrerà il mondo. Non avete paura di non fare niente, no? Ci sono molte persone che vengono nervose, non si fa niente. Yeah. Io sono in vacanza qui e sono ancora ora in vacanza, mi sento in vacanza, mi sento così a mio agio con voi che... Grazie per avermi fatto venire. Ok, grazie. No, una parola per te ora, per ringraziamento che tu... Prima, quando ero seduto lì e mentre suonavi, il Signore mi ha mostrato che Dio ti darà una strategia, perché non soltanto tu suonerai, ma Dio ti darà delle strategie come sviluppare molto di più nel mondo della musica, ma anche teams, eccetera, eccetera, di vedere al di là di quello che tu sai ora. Quindi Dio ti aiuterà a mettere in parole e anche a scrivere delle cose che tu fai automaticamente, senza pensarci. Dio vuole che tu le insegni a altra gente come fare quello che fai tu. Quindi preparati a scrivere, a pensare come puoi insegnare a altra gente a fare quello che fai tu. Perché non so se forse il pastore non lo sa ancora, ma voi fonderete altre chiese. E quindi quando comincerete altre chiese avrete bisogno di aiuto di portare la cultura di questa chiesa altrove. E quindi Dio ti aiuterà anche molto nell'ambito della musica per questo. Grazie, John. Anche te. Ok. 17 minuti e 20 secondi. Isaia capitolo 2, verso 2. Isaia capitolo 2, verso 2. Isaia 2, verso 2 è scritto. Sapete, io sono nato, come si dice, io sono cresciuto e pasciuto nella chiesa, in una chiesa. Quando ho aperto gli occhi ho visto il pulpito, i miei genitori erano molto coinvolti in una chiesa a Taranto e quindi ho visto molto e ho vissuto molto nella chiesa. Ho vissuto cose belle e cose... Come la sapete? Che meraviglia! Sono meravigliato che lo sapete. Veramente, una volta ho visto come una signora... Alla fine della riunione ha gridato al mio pastore: tu sei un ladro! Proprio così, davanti a tutti. E io ho visto questa scena e ho detto: non diventerò mai pastore. Non diventerò mai pastore. No, io ho visto cose belle e cose brutte. Ma sapete, io credo nella Chiesa più che mai. Sapete quando Saulo si chiama, penso... dopo è diventato Paolo, no? E andava a Gerusalemme a perseguitare i cristiani che nel frattempo stavano litigando, no? Perché le vedove erano state trascurate, eccetera, eccetera. La chiesa stava litigando, stavano mormorando, eccetera. Va a perseguitare questa chiesa che stava litigando, mormorando. Dio lo ferma e dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? La mia versione della Bibbia dice, e Saulo disse, ma che io mica ti sto perseguitando da te. Io sto perseguitando quei cristiani là, in effetti non sono nemmeno una chiesa buona, quelli stanno litigando, stanno mormorando, ma tu ti identifichi con loro, ma che stai scherzando? E Dio dice, sì, mi identifico con loro al 100%. Questa è la cosa potente di Dio, che lui si identifica con la sua Chiesa, non dice mai, no, non ho niente a che fare con loro. Se non lo diciamo noi, no? Ma Dio non lo dice mai. Quindi ho visto cose belle e cose cattive, no? Però io credo nella Chiesa di Cristo. Credo che la Chiesa è veramente, come dice un predicatore in America, la Chiesa è la speranza del mondo. Sentite questo. La Chiesa è la speranza del mondo. Quello che succede qui è la cosa più importante che sta succedendo a Modugno, a Bari, in tutta la zona, in tutta l'Italia. Veramente, non è una cosa che ci stiamo inventando. È veramente la Chiesa è la speranza del mondo a tutti i livelli della società. È una cosa seria. Quindi anche se ci divertiamo nell'ambito della Chiesa, è anche una cosa molto molto seria e molto indispensabile per la società nella quale noi viviamo. In Isaia capitolo 2, verso 2 è scritto, negli ultimi giorni verrà l'anticristo. No, è scritto, negli ultimi giorni avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito in cima ai monti e si ergerà al di sopra dei colli ed adesso affluiranno tutte le nazioni, molti popoli verranno dicendo venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Sentite, questo è il piano di Dio. Negli ultimi giorni avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito in cima ai monti e si ergerà al di sopra dei colli, eccetera, eccetera. Questo significa, in parole moderne, che il piano di Dio è di fare in modo che la sua Chiesa diventa la cosa più famosa, più conosciuta in tutta l'Italia. Questo è il piano di Dio. Se tu sei un investitore, metti tutti i soldi nella Chiesa, perché le azioni salgono. È scritto qui, veramente. Non sto scherzando a livello di soldi, veramente. È meglio investire nella Chiesa, perché ha futuro, che in molte cose che non hanno futuro oggi. È anche buono investire il tempo, perché il tempo viene investito in qualcosa che ha futuro e che non finirà mai. Sapete, Gesù, quando lui ha detto io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere, in Matteo capitolo 16, verso 18, Gesù dice, io stesso lo farò questo. Molte cose Gesù dice, lo faccio fare alla gente, questo lo faccio io stesso. Io stesso edificherò la mia Chiesa, perché Gesù crede nella sua Chiesa, e la sua Chiesa è veramente la speranza del mondo, come dice questo predicatore molto conosciuto, lo dice sempre. E quando l'ho sentito molto spesso dicevo sì, che bella parola, ma una volta Dio mi ha detto Gianni, veramente la mia Chiesa è la speranza del mondo. E non soltanto noi dobbiamo comprendere questo, ma anche il mondo deve comprendere questo. Perché è una buona notizia per la gente del mondo. E io voglio menzionare tre cose che sono importanti affinché la Chiesa sia la speranza per tutta l'Italia anche. Numero uno, noi siamo la speranza del mondo quando noi anche siamo quello che Gesù disse, il sale e la luce della terra. Molto importante. Che significa questo? Significa che noi ci coinvolgiamo nello sviluppo democratico della nostra nazione. Io sono cresciuto in un ambito spirituale che diceva la Chiesa e la politica sono due cose separate, non devono mai toccarsi. E sapete, è sbagliatissimo. È vero, il pastore non deve essere il sindaco della città, ma non è vero che la fede e la politica non devono toccarsi, perché se la fede e la politica non si toccano, come può avvenire quello che abbiamo letto di Isaia capitolo 2? Tutta la gente avverrà alla casa dell'Eterno, verranno i sindaci, verranno i politici, verranno gli insegnanti, e tutte queste gente che influenzano la nostra cultura pop, verranno alla casa di Dio, sentiranno la parola dell'Eterno e quello che loro sentono lo mostreranno anche nel loro ambito di lavoro, di influenza. Ed è molto importante, questo è il piano di Dio. Ed è molto importante che noi come Chiesa ci prepariamo, anche che la Chiesa in Italia si prepara a avere influenza a livello politico, perché dovunque io vado, io ero con alcuni dei miei parenti a Taranto e appena uno parla con qualcuno che è italiano, negli ultimi tempi, ma la crisi, il governo, la corruzione, oh. Cosa abbiamo letto prima? Che fa Dio? Aspetta. Aspetta che cosa? Sì, aspetta, forse che la situazione peggiora. Come a Lazzaro, no? Perché Gesù aspettò? Vabbè, il tuo amico sta malato, sta morendo, e tu aspetti e non vai, non corri. No, no, no, aspetta. Perché aspetti? No, perché è meglio che muore prima. Sì, perché che io guarisco i mal di testa lo sanno tutti, ma che io risusciti i morti non lo sanno ancora. Quindi aspetta, aspetta che peggio. No, quello che voglio dire io, Dio sta aspettando che la Chiesa anche si prepara a entrare nel mondo, nell'ambito di influenza, che non è soltanto diventare un politico. Dovunque noi siamo, che noi ci coinvolgiamo, fratelli e sorelle, noi non dobbiamo soltanto sapere cosa dice la Bibbia, dobbiamo anche sapere cosa dice il giornale. Mi sentite? Non dobbiamo soltanto leggere la Bibbia. Leggere la Bibbia è molto importante, ma dobbiamo anche leggere quello che succede intorno a noi e essere pronti a portare parole del regno di Dio nell'ambito del mondo. Perché Dio non ha il piano di Dio, quando lui ha detto io costruisco la mia chiesa, non voleva costruire dei ghetto. Si dice in italiano ghetto? Dio non ha interesse di costruire dei ghetto. Dio non ha interesse di costruire una subcultura, si dice subcultura in italiano, una subcultura. Sapete, negli anni, quando è la generazione degli hippie, gli anni 60-70, questo gruppo, questo movimento era una subcultura per un periodo, poi sono diventati una controcultura, in inglese counterculture, e poi sono diventati parte della cultura. Ora la mentalità degli hippie è in tutti noi e non lo sappiamo nemmeno. Ma questo è il piano di Dio anche. Forse siamo una subcultura, ma non vuole che noi rimaniamo così. Una subcultura con una missione diventa una controcultura che poi diventa parte della cultura. E Dio, quello che quando il regno di Dio invade una società, diventa parte di una cultura, è quello che Dio vuol fare. La corruzione in molte nazioni, come anche in Italia, non si può dissolvere a livello politico, perché è parte della natura dell'uomo. Solo Dio, solo una cultura del regno può trasformare una nazione. Solo questo. Perciò è molto importante non soltanto che noi preghiamo per la nostra nazione, ma anche noi diciamo Dio cambia il nostro modo di pensare. Il diavolo ha avuto successo nel separare la Chiesa dal mondo, con molte ideologie che ci hanno fatto ritirare, ma Dio vuole che noi attacchiamo il mondo. Quando io ero a Taranto cantavamo un cantico, si chiamavano allora, un cantico nella chiesa, e diceva, il mondo non è più per me. Non so quanti di voi la conoscono questa canzone. Non voglio dire non la cantate più, ma chiedi a Dio se dovresti cantare questa canzone. Perché la Bibbia dice il contrario. La Bibbia dice Dio ha amato il mondo, no? Quindi il mondo non è più per... No, no, guarda, noi siamo a casa nel mondo. Non significa che il sistema nel mondo è parte di noi, ma noi dobbiamo costruire casa nel mondo. E dire al mondo, questo è il nostro mondo, è il mondo di Dio. La Bibbia dice all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa. Non al diavolo, all'Eterno. Dipende con quali occhiali tu leggi la Bibbia. Vedi il piano del diavolo o il piano di Dio? E io ho gli occhiali del piano di Dio. Vedo sempre quello che Dio vuol fare. È una cosa molto potente. Quindi Isaia capitolo 2, verso 2, dice quello che Dio vuol fare con la sua Chiesa. Fare diventare questa Chiesa a Modugno e al di là la cosa più famosa che c'è. La cosa che ha più influenza nella città che esiste. È nuovo per noi, ma non è qualcosa che è nuovo per il Signore. La seconda cosa che è importante che noi siamo per essere la speranza del mondo, prima di tutto che siamo il sale e la luce, significa che noi ci coinvolgiamo nell'ambito della democrazia e portiamo parole del regno di Dio in tutti gli ambiti della società. La seconda cosa è che noi siamo sovrannaturali come Dio è sovrannaturale. Quindi l'adorazione deve essere stata molto profetica oggi perché mi ha ispirato molto, ho avuto un sacco di parole. Una cosa per la quale questa chiesa sarà conosciuta era anche nel cuore del senior pastor, sempre, sarete conosciuti per le cose soprannaturali, sovrannaturali si dice, sovrannaturali che succederanno qui. Veramente. Soprannaturale, perché Dio vuole farlo. E il modo, Dio non ha cambiato mai il metodo di pubblicità, non l'ha mai cambiato, è sempre lo stesso. Fare cose che non si possono spiegare. E questo attira la gente. Sapete, l'Austria è conosciuta come la nazione che è il cimitero dei missionari. Quando sono andato in Asia con mia moglie, 30 anni, quasi 30 anni fa, eravamo in una conferenza di missionaria e una signora è venuta a noi e ha detto: io pregherò per voi perché ho sentito che l'Austria è il cimitero dei missionari. Quindi io non sapevo se ringraziarla per la preghiera o per... È il cimitero dei missionari, quindi siamo ancora in vita. Quindi non ha funzionato con noi. No, ma veramente, l'Austria, abbiamo sentito, è una nazione molto molto chiusa all'Evangelo. Ma sapete, tramite il sovrannaturale, l'Austria si apre. Circa sei anni fa stavamo pregando con un gruppo di persone a Vienna, perché a Vienna c'è ogni anno, c'è il primo weekend di novembre, c'è una fiera dell'occulto. Ci sono migliaia di persone vengono da tutta l'Europa, tutti i tipi di espressioni occulte vengono mostrati in questa fiera, dalle cose che sono non hanno molto, diciamo, di cosa demonica, ma altre cose che sono molto molto demoniche, si sente, no? Riempiono questo centro. E noi pregavamo sempre contro questo cosa, che fallisce e che non funziona più, contro il diavolo, abbiamo legato tutti i demoni che c'erano da legare, eccetera. Ma in effetti questa fiera cresce sempre di più, diventa sempre più grande. E una volta, un giorno, mentre pregavamo, tramite una parola profetica di una signora nel gruppo di preghiera, il Signore ha detto: invece di pregare contro la fiera, perché non andate nella fiera? E per fare la lunga storia un po' più corta, ora da 5 anni abbiamo il the biggest stand, lo stand più grande che c'è in tutta la fiera, proprio nel centro della fiera. Abbiamo dei poster che dicono: preghiamo per i malati, interpretiamo i sogni, parole profetiche, tutte queste cose qua. E molta gente viene per ricevere preghiera, per guarigione, eccetera. Gente si è convertita, gente che vengono ora, che sono parte della nostra chiesa. È successa una rivoluzione. Quindi ogni anno siamo lì. Un anno non potevamo andare e il manager, il capo della fiera, ci ha telefonato e ha detto: ebbene, non venite quest'anno. Ha detto: no, quest'anno abbiamo troppo da fare, non ce la facciamo. Ma peccato, ci mancate proprio. Quindi l'Austria è aperta. Poi c'era un signore che stava per andare in pensione alcuni anni fa, si era convertito tramite un gruppo di olandesi nella città di Villach, al confine con l'Italia, al confine con Tarvisio. Sua moglie si era convertita prima in questo piccolo gruppo di olandesi e poi lei ha portato suo marito al Signore e il Signore ha fatto delle cose molto potenti per loro. E quindi un giorno lui è venuto da me, quest'uomo, questo anziano, che stava per andare in pensione, e mi ha detto: Gianni, guarda, io ho messo la mia testimonianza della mia guarigione su una videocassetta. Allora c'avevamo ancora le videocassette, quelle doppie, no? E ha detto: l'ho messa qui e la voglio mandare alla nostra TV nazionale per vedere cosa dicono, forse mi invitano a predicare. Sì, io ero un uomo di fede a quel tempo, ho detto, ma Erwin, si chiama Erwin quest'uomo, ho detto: Erwin, guarda, non è stato fatto bene, quelli lo prendono, lo buttano nella mondezza, non lo guardano nemmeno, no? Ho detto: oh, ok, vabbè, non fa niente. Allora, due mesi dopo mi ha detto: Gianni, sai che è successo? Ti ricordi quando sono venuto da te? Ho detto: Gianni, voglio mandare questo video alla televisione. Ho detto: sì, che è successo? L'ho mandato! E ho detto: oh no, veramente, sì, l'ho mandato. E che è successo? No, poi ho digiunato 40 giorni. E al 41esimo giorno mi ha telefonato la televisione austriaca. E mi hanno detto che hanno interesse di invitarmi a un programma sulla guarigione spirituale. se voglio essere parte di questa discussione su guarigione spirituale. Ma veramente? Sì, mi ha dato. È successo veramente, va nello studio e lui diventò parte di un programma che era molto conosciuto in quei giorni in Austria. Era un'ora al giorno, poi veniva mandata una replica alle 10 di sera e una replica alle 2 di mattina e poi alle 4 di pomeriggio di nuovo dal vivo, replica. Quindi fu invitato e lui andò a essere parte di questo programma, parte della discussione su guarigione spirituale. C'erano guaritori dall'India, guaritori, tanti tipi di guaritori, no? Su questa piattaforma. Ervin era l'unico cristiano che parlava nel nome di Gesù. Quindi io l'ho preparato a lui, perché questo uomo anziano non è diplomatico per niente, non ha paura di nessuno e parla senza paura. Quindi io l'ho detto, guarda Ervin, la tua meta è che ti invitano di nuovo. La tua meta non è che si converta tutta la nazione, la meta è che ti invitano di nuovo. Ah sì Gianni, quindi significa parla solo quando ti fanno una domanda. Ah, va bene, ok Gianni. Poi fai questo. Quindi l'ho preparato un po', arriva il momento e io ero a casa, lo vedevo alla televisione. Comincia il programma e lui è il primo che è venuto sulla piattaforma e ha detto la sua storia, come sua moglie è stata guarita, come Dio ha guarito a lui anche, ha cambiato la sua vita, eccetera, eccetera. Poi c'erano altre persone che sono arrivate a discutere. È una discussione molto interessante. E ho pensato, ma si sta comportando bene Ervin. Parlava quando gli facevano le domande, tutte queste cose qua, no? E allora, poi il programma è arrivato alla fine, un'ora, arriva alla fine, e il presentatore di questo programma dice agli spettatori, beh, siamo arrivati alla fine di questo programma, e quindi questo sarà il titolo del prossimo programma, saluto a tutti, oggi concluderemo questo programma in una maniera differente. E io ho pensato, ma chissà, cos'è questa maniera? Dice, il signore Filafer, Ervin, mi ha chiesto di poter chiudere questo programma con una preghiera. E io ho saputo, oh no! Ho pensato, che succede ora? E veramente, dice, ok, ci vediamo la prossima volta. E sento una musica di Benny Hinn. Che si chiama Benny Hinn? Quello con l'organo. He touch me. E poi le camere vanno tutti su Ervin. Ervin comincia a pregare. Signore, io ti ringrazio per l'opportunità di essere qui in televisione a dire della tua guarigione, della tua potenza, della tua. E poi comincia a vedere parole profetiche per la gente, per gli spettatori. E c'è una donna che sta guardando ora, tu c'hai una crescita nella mano che stai toccando. Dio ti guarisce ora. E c'è un uomo che ha un problema al fegato e Dio ti guarisce ora. E si vedevano che nessuno sapeva cosa fare. Il direttore del programma faceva così, ma che facciamo? Quindi hanno aspettato un po' per educazione e poi hanno finito il programma, piano piano. Sapete che è successa una rivoluzione? Ervin, quest'uomo, aveva dato il mio indirizzo e il mio numero di telefono per qualsiasi domanda alla televisione. La gente ci ha sommersi di lettere, allora non c'era tanto molte email ancora, siamo stati sommersi di lettere da tutta l'Austria, gente che diceva pregate per me, gente si è convertita, questa signora veramente che stava guardando il programma e toccando la crescita sulla mano, era una persona famosa in Austria, che sì, non voleva che diceva il suo nome, ma veramente, mentre guardava e fu guarita, la crescita è sparita, e ha telefonato, io sono quella donna là. Quindi, Ervin voleva andare in pensione, non è mai andato in pensione fino a oggi. Da per tutta l'Austria a predicare, in chiese cattoliche, dappertutto le invitano a predicare, e fu rinvitato più di una volta alla televisione nazionale, a parlare. Quello che voglio dire, noi siamo la speranza del mondo quando siamo soprannaturali come Dio è soprannaturale. Sapete una cosa? Questo lo siamo tutti, perché la natura di Dio è dentro di noi. Amen? Ora concludo, alziamoci in piedi per favore. Bravo. Quello che voglio dire, per quello che voglio dire ora, vi chiedo di prendere la mano destra e metterla sul cuore sinistro. Qui. Per favore, fatelo. Il mio terzo punto è questo. Che noi siamo la speranza del mondo quando amiamo la gente del mondo come Gesù li ama. Con un amore che non ha condizione. Questo verso è stato menzionato all'inizio di questa riunione, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliolo affinché chiunque creda non perisca, ma abbia la vita eterna. Sapete perché Gesù stesso è la speranza del mondo? Perché lui era un amico dei peccatori. E lui fu chiamato amico dei peccatori perché i peccatori si sentirono così a loro agio con lui. Lui fu incolpato di essere anche un ubriacone e un peccatore perché la gente vedeva che i peccatori si sentivano a loro agio con Gesù, non si sentivano inferiori, non si sentivano sporchi. E se il Figlio di Dio, che era senza peccato, ce l'ha fatto a dire a questa gente: voi siete preziosi, malgrado quello che fate, che avete fatto o che fate, quanto più dovremmo essere noi disposti a dire a chiunque. Perciò dice la Bibbia, perché Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque. È vero, dice, chiunque creda. Ma prima di chiedere, prima che Dio dice alla gente: per favore credi, sai cosa fa prima? Ama, dà e poi dice: credi. Sapete che non è difficile quando lui viene da te e ti ama così tanto, ti incoraggia così tanto, crede così tanto in te e ti regala. E poi quando questa persona viene e dice: per favore credi in me, cosa diresti tu? Sì, per forza. Molto spesso la Chiesa ha fatto questo: credi e poi vediamo se noi ti ameremo e poi vediamo se ne vale la pena il nostro tempo. Dio dice: ti amo, ti do, credi. E quando lui ci ha amato, quando lui ci ha dato, eravamo tutt'altro che amabili, vero? Sapete che l'amore di Dio è uno scandalo per molta gente. Se l'amore della Chiesa verso i peccatori non è scandaloso, non è potente abbastanza. Dobbiamo avere un amore che è scandaloso, come l'amore di Gesù verso i peccatori scandalizzava i farisei. L'amore nostro per la gente che non segue Gesù, per la gente che non vuole seguire Gesù, deve essere scandaloso. Un amico mio una volta mi ha detto: Gianni, sai che una chiesa sana è composta da tre tipi di persone. Il primo gruppo di persone sono uomini e donne che sono seguaci di Gesù. Hanno deciso, sono convinti, sono stati conquistati. Poi il secondo gruppo è gente che fa il flirt con Gesù. Non sono sicuri. Un piede là, un piede là. Secondo gruppo. E io ho detto: chi è il terzo gruppo? Se già il secondo gruppo non sono sicuri. Qual è il terzo gruppo? Il terzo gruppo, Gianni, è quelli che non credono ancora. Non credono proprio. Com'è? Parte della Chiesa? Sì. Com'erano i discepoli di Gesù? Erano tutti credenti? Sapete, non erano nemmeno nati di nuovo i discepoli di Gesù. E fino alla fine non credevano nemmeno. Pietro fino alla fine, dopo 3 anni e mezzo con Gesù, il Salvatore, il figlio di Dio, ancora vuole prendere la spada e uccidere a tutti. E Gesù ha detto, ma tu non hai capito niente. Uno lo tradisce, uno lo rinnega, alla fine di 3 anni e mezzo con Gesù. Ma Gesù è fallito, nella chiesa tua la gente non sono in forma, Gli altri vogliono incenerire a tutti, gli altri vogliono avere il posto a destra e a sinistra da te, sono arrivisti. Ma che tipo di chiesa c'hai, Gesù? Ma che tipo di chiesa? E Gesù dice, la chiesa giusta. Perché se la chiesa è soltanto piena di gente che è arrivata, diciamo, sta seguendo il Signore soltanto, stiamo mancando di essere, di includere gente che deve essere inclusa. Rimettete la mano sul cuore. Io sto parlando al vostro cuore ora. Dio vuole mandare gente pericolosa qui. Dio vuole mandare gente qui che voi pensate, perché vengono? Eppure lui li vuole mandare. E vuole che voi come chiesa diventate la speranza di tutta questa zona e dell'Italia per l'amore scandaloso che avete per la gente. E quando la gente viene qui e non fa niente come sono, se i capelli sono gialli, rossi, orecchini, non importa come loro sono, vedranno un grande sì verso di loro. Amen. Signore, io ti chiedo, Signore, che tu mostri a questa Chiesa quanto tu credi in loro. Che tu mostri a queste persone che sono qui quanto tu credi in loro, quanto tu hai bisogno di loro. C'è una donna qui che mentre io dicevo Dio vuole che tu ami la gente che non sono amabili, tu hai detto sì. Se tu sapessi che ho io a casa mia, non devo nemmeno guardare molto lontano, questa gente è a casa mia, sono i miei figli. E Dio dice sì, esattamente, sono i tuoi figli, io ti darò un amore per loro che tu non hai mai conosciuto, e tu li vedrai come se sono angeli, e tu li vedrai già salvati, tu li vedrai già trasformati, e tu li tratterai come se sono già così. Anche quando non cambiano, li tratterai in una maniera come se sono già trasformati. Dio dice, hai ragione, comincerò proprio a casa tua, all'alghero del tuo cuore, e non soltanto per i tuoi figli, ma anche per gli amici dei tuoi figli, che sono la causa per la quale i tuoi figli fanno certe cose. Dio dice, ti darò un cuore così grande che puoi includere anche loro. E tu dici, no, è impossibile, no, impossibile. Dio dice, guarda, osserva quello che farò. E sarà l'inizio di qualcosa di molto speciale. Il Signore dice, io farò in modo che il tuo amore sia più forte del tuo dolore. Io farò in modo che il tuo amore sarà più forte del tuo dolore. Signore, io ti chiedo che questo sia vero anche in tutti noi, che il nostro amore per il mondo, per la gente del mondo, sia più forte del nostro dolore, sia più forte del nostro shock, sia più forte di quello che ci spaventa. Il tuo amore, l'amore verso di loro, sia più forte di ogni altra cosa, nel nome di Gesù. E ti chiedo che tu fai in modo che questa chiesa non solo cresca come sta crescendo, ma che esploda. Fagli esplodere, Signore, in tutte le direzioni, nel nome di Gesù. Amen. Grazie per avermi ascoltato.